Prospettaccio, e questo è l'ufficiale. Costello! Alendrino! Ebbene, Marama! Io sono, signor mio, irritata, sorpresa, al par di voi. Ma stamane? Stamane? Per l'odierna festa voleva travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso. E perché non partisti? Signor! Saprò punire la tua disubbidienza. Eccellenza, eccellenza! Voi mi dite se spesso col volto m'abbracciate e mi baciate. Barbarina, se mami ti darò quel che prendi. Io dissi questo? Portatemi, padrone, sposo che rupino, e vamerò con amore il mio cattivo. Ebbene, or tocca a voi. Brava figliola, hai buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual'uomo, qual demone, qual Dio rivolga tutto quanto a torto mio.